Buona serata a tutti dalla voce di Marco Gravelli su Rock FM, secondo appuntamento della settimana, il quarto se seguite la replica di Hard and Heavy. Come sempre diamo il ringraziamento al nostro autore Simone Scavo, che prepara anche per questa sera la nostra tracklist, le note biografiche. Partiamo con una band che, a dire la verità, mi è stata richiesta per la Heavy Metal Nightmare, che ricordo si terrà insieme a Max Deriu, oltre a sottoscritto, la nottata che va dal 16 maggio sino alle 6 del mattino del 17. Una band molto rara da trovare a livello di discografia, eppure mi è capitato in mano in questo weekend, abbiamo deciso di proporvela. Si chiamano Q5, la Q seguita dal numero 5. Arrivano da Seattle, hanno alle spalle due album in studio. Dopo un EP del 1983 arrivano all'esordio con questo lavoro dal titolo Steal the Light. È album pubblicato in America con una copertina diversa da quella europea. Quando uscì ottenne delle ottime recensioni, ma non il riscontro commerciale sperato. Ci riprovano due anni dopo con When the Mirror Cracks, con recensioni alterne. Mentre stavano scrivendo il materiale per il terzo album, alla fine decidono di sciogliersi. Ripeto, si chiamavano Q5, questo è il loro primo album Steal the Light, li ascoltiamo con Lonely Lady. note di questa canzone dall'album Still the Light, la formazione è quella di Seattle chiamata Q5. Siamo nel 1984, li abbiamo proposti con Lonely Lady. Andiamo invece a New York, band di epic metal che ha fatto del vero metal la propria voce e la canzone di stasera che viene spesso interpretata nei loro concerti. Per quanto riguarda la copertina che ha ispirato la schermata iniziale del famosissimo videogioco Turrican per il C64 ed Amiga 500, vecchie console, vecchi computer da gioco, ed inoltre da questa copertina in poi sarà presente negli album in studio Il Guerriero Senza Volto. L'album è appunto Fighting the World, il pezzo si intitola Black Wind, Fire and Steel. album Fighting the World, la formazione è quella appunto dei Manowar con Black Wind Fire and Steel, un loro classico. Ritorniamo alle cose più recenti con gli Storm Warrior. Questa band è uscita all'inizio di marzo con il terzo album Eden North. Loro arrivano dalla Germania, propongono del power metal. Il leader e fondatore del gruppo è il cantante e chitarrista Lars Ramke, che ad oggi è anche l'unico membro originale. L'album è stato pubblicato dall'etichetta Dokia One, mixato da Pete Silk degli Iron Savior e Savage Circus, masterizzato da Tommy Hansen presso i suoi studi personali in Danimarca. Si chiamano appunto Storm Warrior. Li andiamo ad ascoltare con Raganork, il titolo del pezzo, da Eden North. Presente il terzo album dei tedeschi Storm Warrior, Eden North era il brano dal titolo Raganork. Andiamo invece al passato. Due album sono stati pubblicati per questa band americana di AOR. Il primo, quello che prendiamo in considerazione, è uscito addirittura nel 1978, ottenne buoni riscontri e anche il singolo che vi presento funzionò abbastanza bene nelle classifiche di vendita. Difficili magari reperire il loro materiale, come spesso accade. a meno che non siano stati ristampati. Il gruppo è un quartetto, si chiamavano Trickster, vennero creati da Phil Bates, cantante e chitarrista che è ancora in attività. Lui si con una sua carriera solista, esiste anche il suo sito philbates.com, e ha militato anche nella formazione della Yellow, dell'Electric Light Orchestra, in tantissime altre band, e appunto per 3-4 anni in questi Trickster, che erano un suo progetto. Musica AOR, il lavoro in questione si intitolava appunto Trickster, venne pubblicato dalla Jet Records. Il brano che andiamo a proporre è la canzone che apre la B-side, fu anche il singolo dell'epoca, dal titolo molto lungo, If That's the Way the Feeling Takes You. Questo è il titolo del brano per i Trickster, direttamente dagli States. Singolo che entrò nelle charts di vendita americane, That's the Way the Feeling Takes You, per la formazione dei Trickster che oggi vi ho proposto dal loro album d'esordio. Continuiamo e ritorniamo in Germania, sempre con il sound legato al passato, insieme agli Scorpions, a mio avviso la band più importante della Germania, cioè gli Accept. Loro sono riusciti ad imporsi in Europa grazie ad un sound molto potente per l'epoca. Pensate che comunque la primissima formazione sotto il nome di Band X nacque nel 1968, poi lo cambiarono il nome 3 anni dopo in Accept. Il fondatore era il cantante Udo Dirkschneider, ormai protagonista con la sua carriera solista. L'album d'esordio arriva nel 79, già col secondo I'm a Rebel dell'80 riescono a entrare nelle classifiche di vendite tedesche, a partecipare a diverse trasmissioni televisive. Il lavoro successivo comincia a portargli un bel po' di notorietà. L'album si intitola Breaker e poi riescono ad andare in tour con i Judas Priest. Un altro classico è Restless and Wild, mentre il primo grande successo a livello europeo e mondiale è Balls to the Wall del 1983. Lo ricordiamo che la band si è sciolta la prima volta per riformarsi con un nuovo cantante, quindi una seconda volta, ma con questa volta con Udo alla voce. La band si è sciolta ufficialmente nel 96, nel 2005 c'è stata una reunion solo per un tour. Dall'album intitolato Breaker, la canzone omonima, Accept. We'll be right back. Concept con le note del brano intitolato Breaker, da una famosissima band metal tedesca ad un'altra famosissima band di hard rock AOR inglese, e hanno venduto milioni e milioni di copie, sono famosi in tutto il mondo, famosi anche in America, soprattutto perché con album come Pyromania, Adrenalize hanno venduto tantissimo. Sto parlando dei Def Leppard, che in questi giorni sono ritornati con questo nuovo lavoro dal titolo Songs from the Sparkle Lounge, già pubblicato anche in Italia. Ci sono anche alcuni special guest di generi anche differenti, ad esempio vi è un cantante molto famoso in America di musica country che nel singolo Nine Lives si alterna insieme a Joe Elliott alla voce. Le canzoni in totale sono 12, il pezzo che vi propongo quest'oggi si intitola Hallucinate Def Leppard. Ricordi le Ziguli? Ti ricordi quante ne mangiavi da bambino? Li puoi gustare anche oggi che sei grande, perché il gusto non ha età. E Ziguli soddisfa tutta la tua voglia di frutta, liquirizia e cioccolato. E da oggi le trovi anche nelle pratiche confezioni pocket. Chiedile al tuo bar. Ziguli, il mito non si scorda mai. Rock FM Spot. In Flames, The Mirror's Truth, il fantastico ritorno della miglior melodica death metal band del mondo. Let's go. voce aggressiva, riff enormi, momenti di melodia ed un tiro da paura. Questo è il vero metal moderno. Questi sono gli In Flames, nei migliori negozi di dischi. Rock in Field Festival con Rock FM, sabato 26 luglio all'Idroscalo di Milano. Barley Arts dedica il Festival Metal a Rock FM, insieme da sempre. Rock in Field 2008 con Avantasia, Halloween, Epica, Vision Divine, Threshold, Biomechanical, Eluveitie ed altri ancora. Info su rockinfield.com. Inizio di seconda parte di Arden Devi con una formazione che arriva dalla città di Atene, dalla Grecia. Propongono epic metal, si chiamano Battle Roar, questo è il loro terzo album, To Death and Behind, con il quale hanno stipulato un contratto con la nostrana etichetta Cruz del Sur, che pubblica proprio ha pubblicato lo scorso ottobre questo nuovo album. Perlomeno hanno stipulato il contratto lo scorso ottobre, l'album è pubblicato da pochissimo. Ci sono 9 tracce, esiste anche una limited edition con una bonus track che è una cover dei Manila Road. La prossima band che ha suonato di recente qua in Italia, spalla ai Camelot, dimostrando un'ottima attitudine dal vivo di avere un buon seguito anche qui da noi, sono i Firewind. Anche loro arrivano dalla Grecia come i precedenti Battle Roar e da un paio di album sono entrati anche nelle classifiche di vendita nazionali e sono usciti da diverse settimane sempre su etichetta Century Media con questo album, è il loro quinto, si intitola The Premonition. Leader e fondatore è l'ottimo Gus G, che ricordiamo ha militato anche nei Dream Evil, nei Mystic Prophecy e per un breve periodo anche negli Arch Enemy. Della lineup attuale, stabile dal precedente lavoro, oltre a Gus G alle chitarre, vi è anche il batterista tedesco Mark Cross, ex Halloween ed ex Metallium, l'altrettanto bravo cantante greco Apollo Papatanasio, che ha militato nei Majesty, nei Time Requiem e nei Medusa, mentre al basso c'è il bassista norvegese dei Pagan's Mind. L'album è stato anticipato dal singolo Mercenary Man, che ha raggiunto la posizione numero 6 in Grecia e per il quale un mese fa è stato reso disponibile anche il video. Li andiamo ad ascoltare proprio con questo brano, Mercenary Man, la band greca dei Firewind dall'album The Premonition. Take a look at your boy, face a man without a soul. He's standing in the doorway. I'll be gone before the night is over. I have to go, I have to run to the border. Lost my way, I run in desperation. Yes, the words are lost communication. Keep the faith, it's alright. Your boy's a mercenary man, a soldier made of steel. A shotgun wings, the wind is calling. Oh, immancabile l'appuntamento con le Metal News. Parliamo dei Vichinghi, o meglio, di una band che propone il Viking Metal. Arrivano dalla Svezia, sono di Amon Amarth. Hanno scelto praticamente, sono entrati negli studi che sono i Fascination Studios per registrare il nuovo album. Il produttore Jens Bogren, che ha già lavorato in passato con Hammerfall, Symphony X e recentemente per gli Opeth e gli Heavenwood. Divine Hearsay, la band di Dino Cazares, ex Fear Factory, ha reso noto la fuoriuscita del cantante Tommy Vexet per l'inaffinabilità dimostrate per gli atteggiamenti che ha tenuto di recente. Il nuovo vocalist verrà scelto a breve. Paul Dienno, l'ex cantante degli Iron, tornerà in Italia per due date a luglio. Sono due feste, il 4 luglio il Leaf Rock di Varese, il 5 luglio Festa della Birra di Fontigo in provincia di Treviso. Lamb of God, da poco hanno effettuato un contratto con la Roadrunner Records, hanno stipulato questo contratto e pubblicheranno un doppio DVD dal titolo Walk With Me in Hell. Cammina con me nell'inferno, ci saranno 5 ore di materiale, 2 DVD. Il primo contiene un documentario sulla storia della band e diversi estratti da loro concerti. Il secondo, un intero concerto registrato lo scorso anno. Mindatsol, a poco più di un mese dalla pubblicazione del secondo album Norlis per questa band norvegese, il chitarrista fondatore ha deciso di lasciare la band per dedicarsi in primis alla famiglia e anche al suo progetto solista Ahab. Però da questo loro lavoro, Midnight Soul è il nome della band, oggi andiamo a proporvi un estratto da quest'album, motivo intitolato Open Your Eyes. arrivano dalla Norvegia, ci sono anche due bambolone bionde che fanno parte della line-up di questa formazione, Midnight Soul, con la doppia T, alternano brani cantati in lingua madre ad altri cantati in lingua inglese. Questa è Open Your Eyes, il pezzo che apre questo lavoro dal titolo Nordlys, il loro nuovo album. Lasciamo alle spalle la formazione norvegese dei Midnight Soul per andare in Canada, esattamente a Ottawa, da dove arriva una delle band considerate padri dello speed metal, cioè gli Exciter. Risalgono al 1978, il loro nome è ispirato proprio a una canzone di Judas Priest. Il loro album di debutto, Heavy Metal Maniac, arriva nel 1983 ed è tutt'oggi il caposaldo dello speed thrash metal. Dopo quell'album ne arrivarono altri importanti come Violence and Force nell'84 e Long Live the Load del 1985. Nel 90 si sono sciolti per essere ricreati l'anno dopo dal chitarrista Ricci e dal batterista Beheller, ma con un nuovo bassista. Tornano sul mercato poi nel 92 con l'album Kill After Kill. Segue un live album ed un nuovo scioglimento nel 93. Dopo tre anni John Ricci ricrea nuovamente gli Exciter con un nuovo bassista, un nuovo batterista e soprattutto il cantante, cioè Jacques Belanger, che canterà anche nei successivi lavori per lasciare la band nella primavera del 2006. Il suo posto è stato preso da Kenny Winter, insieme al quale hanno registrato questo nuovo album che si intitola Thrash Speed Burn. Presenta 10 brani. Oggi vi proponiamo quella che dà il titolo all'album stesso, Thrash Speed Burn, The Exciter. non si è capito? Thrash Speed Burn, titolo dell'album, titolo del brano per i canadesi Exciter. Visto l'orario, andiamo a chiudere con la prossima band che ha pubblicato la scorsa settimana questo album d'esordio. Fires of Babylon è una project band formata da quattro elementi che propongono heavy metal stile anni 80. Il gruppo è stato creato dal chitarrista Lucien Paul dei Winter's Bane su richiesta dell'etichetta Metal Heaven. Così ha chiamato il bassista Kelly Conlon, che ha già suonato nell'album Symbolic dei Death e in due lavori dei Monstrosity, il batterista Robert Falzano degli Shatter Messiah e soprattutto il bravissimo cantante Rob Rock, ex Impellitteri, ex Rudy Pell e con un'ottima carriera solista. Ci sono 10 brani in totale, noi ascolteremo Holy Resurrection e i saluti arrivano in questo istante. Marco Gravelli vi ringrazia, lo spazio di Arden Devi chiude i battenti per questa sera, un ringraziamento a Simone Scavo il nostro autore e un risentirci alla giornata di domani. Ciao ciao. Legend. Mariposa, Corso Lodi numero 1 a Milano, ti ha presentato